Yes you, aha, bella delirio, SS mixtape, questa è la mia true story, la storia della mia vita, e tu ancora non l'hai capita, non l'hai capita, aha. La mia true story, storia vera. Per quelli come me, forse meglio la galera. Tanto lavoro qua col cazzo che lo trovi se lo trovi. Poi non è mai come lo vuoi. Quanti anni che ho perso stando nel vuoto e quanti anni perderò parlando di me a questa gente che francamente non merita niente. Solo chi è abituato a correre corre per sempre. Ho rinunciato a tanto per arrivare fin qua. Ho lasciato tutto ciò che avevo a metà. A questa vita di merda, frate, ho detto basta. Fare musica è la mia unica chance rimasta e non la spreco sta certo. Mi basta pensare al mio paese, sempre più deserto, per capire che devo proseguire mettendo tutta la mia vita con magari un po' di stile. La storia della mia vita. E tu ancora non l'hai capita. No, non l'hai capita. Aha. Scrivo tutto me stesso sopra ogni testo. Per me è come uno specchio in cui mi vedo riflesso. Mi sono preparato al peggio, figurati a questo. Sempre almeno spero si possa chiamare successo. È l'apparenza di ingannare le persone. Dicono di me che ce l'ho fatta, ma non so neanche come. Ho perso ogni ragione per stare in questo mondo, visto che ho visto tutti i miei sogni andare a fondo. Ci ho messo tanto di passione, tanto di cannone. Dico quello che penso e sappi che me ne frego della tua opinione. Sempre di più, cresciuto con tante ambizioni che ora non ho più. Sono stato un disastro, ma io arrivo dal basso e mi dispiace. Di questo rap non sono un asso, ma almeno ci provo. Non come te che parli, parli e alla fine ti sparli da solo. La storia della mia vita.